Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova puntata insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Oggi con noi abbiamo Gianluca Codognato. Ciao Gianluca, benvenuto. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Beh, intanto Gianluca, voglio ricordare a te e anche agli ascoltatori che siamo arrivati alla 501esima puntata. Tanti anni che ci troviamo sistematicamente a parlare di cose che interessano, insomma, un po' il portafoglio e la vita normale delle persone, no? Parliamo in questo caso di investimenti, perché è una cosa che tutti un po' nella vita abbiamo provato a fare. Abbiamo magari un gruzzoletto da parte, decidiamo di investirlo in maniera che non possa magari perdere il suo valore e anche magari farci guadagnare qualche cosa. Sì Francesco, abbiamo parlato già altre volte appunto di fondi di investimento e abbiamo parlato soprattutto dei problemi che hanno vissuto i risparmiatori veneti in questi ultimi anni. Li conosciamo tutti, i problemi si chiamano soprattutto Veneto Banca e Popolare di Vicenza e sappiamo insomma come è andata a finire quella storia, la situazione. Ora mi sa che dovremmo andarci a occupare, anche se sicuramente in misura molto più limitata, di un altro problema, di un altro problema riguardante un investimento, che è un investimento delle Poste Italiane. Il fondo in questione si chiama Fondo Obelisco, è un fondo immobiliare appunto delle Poste che è stato creato nel 2005 e diciamo che dopo tutto questo tempo quel fondo è veramente crollato in una maniera incredibile, lasciando spiazzati moltissimi risparmiatori che l'avevano scelto, mal consigliati evidentemente da funzionari o direttori di vari uffici postali. La storia che andiamo a raccontare riguarda un ragazzo molto giovane quando aveva acquistato le quote del fondo, un ragazzo, un operaio veneziano che appunto quando aveva 23 anni, su consiglio del direttore delle Poste del suo paese, aveva convogliato tutti i propri risparmi, che erano anche notevoli, 10.000 euro, appunto su questo fondo Obelisco, comprandone 4 quote, perché ricordiamo che a suo tempo, nel 2005, ogni quota valeva proprio 2.500 euro l'una. Quindi questo ragazzo, consigliato, ripeto, dal direttore delle Poste, aveva acquistato 4 quote per un totale di 10.000 euro. Ebbene Francesco, dall'ultimo rendiconto questi 10.000 euro adesso valgono 800 euro, quindi un crollo superiore al 90%. Stiamo parlando di un fondo immobiliare, quindi chiaramente un fondo che ha vissuto clamorosamente la crisi del 2008, perché è partita, iniziata nel 2008, del settore immobiliare. Però dobbiamo dire che il crollo del settore immobiliare ha una proporzione, diciamo, inferiore rispetto al crollo che hanno registrato invece queste quote. Il fondo Obelisco era un fondo a rischio, diciamolo subito, però troppe volte questo fondo invece è stato presentato da chi lo vendeva, fondamentalmente da chi vendeva le quote, quindi dai vari funzionari e direttori delle Poste Italiane, era venduto invece come un fondo sicuro, un fondo tranquillo, insomma, su cui investire senza nessun tipo di problema. E invece, come insegna l'esperienza di questo ragazzo, ma in realtà noi stiamo seguendo vari casi di persone che si sono rivolte a noi trovandosi appunto con carta straccia, invece che appunto il valore di 2.500 euro che era il valore iniziale, e tante persone sono rivolte a noi contestando appunto il fatto che non erano state avvertite dell'alto rischio di questo fondo immobiliare. Noi, come appunto nostro intervento, il nostro ufficio legale è già intervenuto in altre occasioni, è intervenuto anche per questo ragazzo, adesso attendiamo le risposte, e contestando appunto alle Poste Italiane che chi ha venduto quelle quote non ha specificato che quel fondo era ad alto rischio, per cui contestiamo un vizio nelle informazioni fornite a chi acquistava poi quelle quote. Quindi stiamo parlando appunto di un fondo che veramente ha perso troppo e sta mettendo in ginocchio tanti risparmiatori. E Francesco, siamo in un periodo in cui il risparmiatore è bistrattato, lo sappiamo perfettamente. Sì. Noi cerchiamo di intervenire per come possiamo. E speriamo che per quanto riguarda il fondo Obelisco veramente le Poste riescano a restituire il capitale iniziale a chi lo ha messo, a chi ha investito. perché riteniamo che appunto non nessuno, cioè tante persone non siano state informate veramente su quello che sarebbe potuto succedere e che purtroppo è successo con queste quote. Questa non è la prima volta che capita di sentire di poca informazione a chi fa degli investimenti. Magari adesso ci sono delle regole anche un po' più ferree in questo e le banche non possono offrire determinati prodotti se la persona non ha le capacità di conoscenza per poter fare un determinato tipo di investimento. Quindi forse le cose adesso sono cambiate, però guardando indietro nel tempo, ahimè, sono molti quelli che sono caduti in questi tra virgolette tranelli, e quindi adesso quando vanno a rivendere i fondi si ritrovano con un pugno di mosche in mano. Speriamo che l'utilizzo insomma della vostra associazione porti a una felice risoluzione insomma dell'investimento. Sì, Francesco, tra l'altro un paio di mesi fa, proprio per una persona anziana che aveva investito sempre 10.000 euro, quindi 4 quote, sempre su questo fondo immobiliare, il fondo Obelisco, ecco, grazie al nostro ufficio legale ha fatto veramente un bel lavoro, a una persona anziana siamo riusciti a far sì che le poste restituissero esattamente il capitale iniziale di 10.000 euro. In quel caso, come nel caso di questo ormai 35enne della provincia di Venezia, che però quando aveva acquistato le quote aveva 23 anni, e anche in quel caso avevamo contestato il fatto che la persona non era stata messa a conoscenza dei rischi di quel fondo, e in quel caso è stato restituito tutto il capitale iniziale, quindi 10.000 euro, con grande soddisfazione da parte appunto della persona che si è rivolta a noi e anche del nostro ufficio legale. Ci auguriamo che succeda lo stesso anche per quest'altra persona e per tutte le persone che insomma, o rivolgendosi a noi o ad altre associazioni, contesteranno il fatto di non essere stati messi a conoscenza della rischiosità di questo investimento. Certo, ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it, dove si trovano anche poi i contatti per chiamarvi. Grazie a Gianluca Codognato, tra qualche giorno. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.